un progetto ambiguo, sciatto e approssimativo dal punto di vista storiografico e museografico, pericoloso per il contesto in cui va a collocarsi. È stato elaborato in modo opaco e verticistico, nasce tutto da un'operazione di immagine del sindaco di Predappio Frassineti, che però l'ha presentato con motivazioni anche contrastanti l'altra. Io è un po' il viceverso, che però non è solo mio, nel senso che tra i critici spietati di questo percorso e di questo progetto ci sono alcuni tra i decani della storiografia italiana e molti tra i migliori storici che ci sono in circolazione in Italia. Io ho fatto un'inchiesta su questo progetto per mesi, sono andato a Predappio a fare anche un tour dell'orrore della memorialistica neofascista e della bigiotteria nazi che ce l'ha. Quindi sono studiato la storia di Predappio, la storia di come si arrivò alla tumulazione della salma del Duce nel cimitero di San Cassiano, e poi masochisticamente mi sono ricostruito tutti questi anni di dibattito sulla proposta del sindaco Frassineti di fare un museo nell'ex casa del fascio. Ho letto una quantità monumentale di rassegna stampa, credo circa un'ottantina di interviste rilasciate dal sindaco, e inoltre assieme ad altri ho studiato a fondo il progetto museografico, quello che verrà messo in mostra dal 9 dicembre alla Casa Natale del Duce. È un progetto pieno di lacune e, come dicevo prima, di ambiguità. Se il progetto, come dice un lato di Frassineti lato A, se il progetto era nato per contrastare i commerci neofascisti e il monopolio sulla memoria di Predappio da parte dell'estrema destra, allora per eterogenesi dei fini otterrà l'esatto contrario. Se invece è nato come operazione che si installa pienamente nell'odierno senso comune post-antifascista, renziano e tutto quanto, allora è perfetto per lo scopo. Mi ha colpito nella tua inchiesta la questione che riguarda anche ovviamente la collocazione, la cornice e il contorno. Tu dici non è una questione di confusione, ma una questione di giusta posizione di due cornici narrative, una sorta di anche cerchiobottismo da un certo punto di vista, perché lo stesso Frassineti dice di non voler chiudere quei negozi che vendono gadgettistica fascista, perché comunque portano un indotto al comune. Per come l'ho ricostruita io, non c'è alcun interesse reale a contrastare i pellegrinaggi neri e i commerci neofascisti, nonostante a volte Frassineti a seconda di chi lo intervista, naturalmente, soprattutto quando lo intervistano giornali esteri, no? Quando lo intervista, diciamo così, la stampa democratica internazionale, o quando lo intervista un organo, usando molte virgolette, di sinistra italiano, lui dice che il progetto ha come scopo quello di contrastare, eccetera. Ma in realtà non è così, non è accompagnato da alcuna misura per disincentivare quei pellegrinaggi, anzi il paese ogni volta che ci sono quei pellegrinaggi si adegua per quanto riguarda norme di traffico, ordinanze comunali, sembra che venga quasi steso il tappeto rosso a questi fascisti che arrivano per l'anniversario della marcia su Roma e per il compleanno del Duce, no? E di contro invece molto spesso Frassineti ha negato l'utilizzo del suolo pubblico per iniziative antifasciste, in quell'occasione accampando naturalmente motivazioni legate all'ordine pubblico, a non far crescere la tensione in città. E città, poi stiamo parlando di un paesotto minuscolo, è un paesotto veramente piccolissimo che lo fai a piedi in 4 minuti 4 e sembra più grande perché ha delle architetture sproporzionate rispetto alla sua estensione. Ci sono delle architetture che sembra di stare all'Eur e invece poi giri l'angolo ed è finito tutto, c'è già la campagna. E appunto non c'è nessuna misura per disincentivare quelle cose, non c'è alcuna intenzione di chiudere quei negozi, ma per un motivo molto semplice: l'intera economia del paese e dei dintorni dipende da quei pellegrinaggi e da quei commerci. Quando il 29 ottobre scorso 3.000 fascisti hanno commemorato l'anniversario della marcia su Roma, dopo hanno riempito tutti i ristoranti della vallata, e questo indotto c'è anche quando non ci sono particolari ricorrenze, perché comunque il flusso diminuisce ma è costante per tutto il periodo dell'anno. Io sono andato un mercoledì mattina di settembre aspettandomi di non trovare nessuno, eppure c'erano clienti dentro i negozi neofascisti e c'era un via vai continuo alla tomba del Duce. Quella lì è tutta gente che dal minimo di entrare comunque in un bar e prendere un caffè, al pranzare in zona, al prendere una camera in un B&B, o comunque entrare in quei negozi che sono gestiti, posseduti e gestiti da pretappiesi e lasciare dentro dei soldi in gadget, comunque fa parte dell'indotto. Il paese c'ha quello lì e il Sangiovese, però non è che la gente viene da tutta Italia e anche da altri paesi europei per il Sangiovese, cioè non è che il Sangiovese di Predappio ha questa incredibile fama, eppure Frassinetti in alcune interviste ha detto che la gente viene qui per il Sangiovese, poi scopre che c'è nato il Duce. Chiaramente non è molto verosimile, penso sia molto più verosimile l'inverso. Il progetto di museo non si pone in alcun modo in alternativa, è semplicemente un'offerta in più che viene data, è una possibilità in più per chi va a Predappio, in un contesto fortemente corrotto dalla presenza di questi negozi e appunto è in ogni caso è una cornice celebrativa che fu costruita negli anni 20 e 30 apposta per essere celebrativa. Quindi il problema di come disattivare la forza mitica di quella cornice andava a posto, mentre loro da quell'orecchio lì non ci sentono e non vogliono sentirci, se ne fregano, continuano a dire che è un progetto serio, scientifico, di museo, a parte che io non lo ritengo né serio né scientifico, ma loro continuano a dire che un progetto serio, scientifico, di museo basterà a far capire che invece non basterà assolutamente. Se non ti poni il problema del frame che hai intorno, sei destinato a essere, nella migliore delle ipotesi, subalterno a quel frame. Ma tanto loro comunque lo aprono per poter dare una riverniciata di rispettabilità alla situazione che si è creata a Predappio, senza mutarla questa situazione, perché appunto ne va dell'economia della zona. L'impatto che una misura del genere, un progetto del genere potrebbe avere, a sentire le tue parole, insomma, sembra devastante. Tu immaginati fico con il fascismo al posto del cibo. La logica è quella lì. L'ha fatto notare anche Wolf Bukowski, no, nella sua apparsa su già recente inchiesta su fico. Dice: ci sono molte parentele tra fico e il progetto di museo del fascismo a Predappio. La logica è quella, del resto nasce tutto in ambito renziano. Tu immaginati fico con il fascismo al posto del cibo, con la memoria del fascismo al posto del cibo, spettacolarizzata, banalizzata, piena di non detti, come del resto ci sono un sacco di non detti su fico, sulla filiera, sul funzionamento, no? E in più immaginati le scolaresche comandate, come del resto a fico. Non a caso le maggiori critiche a quel progetto, più radicali, accompagnate da obiezioni molto concrete e pratiche, sono venute da insegnanti che dicono: ma io porto la mia scolaresca al museo, per andarci devo passare davanti, perché è così, devi passare in viale Matteotti per arrivare all'ex casa del fascio, passo davanti a tutti i negozi con le vetrine piene di svastiche, di ciarpame, di fasci littori, di igni alla violenza. È già questo. Se un ragazzo mi chiede di entrare lì, io cosa gli dico? Gli dico di no, passando per il censore e quindi alimentando il gusto del proibito, o cosa faccio? Mi tocca dirgli di sì, così entrano in quei cacatoi, no? Oppure sono dentro il museo e mentre parlo, siccome dentro sicuramente entreranno anche i neofascisti che lì vanno ogni giorno e in alcune occasioni sono veramente molto numerosi in paese, che mi interrompe e mi contesta. Io cosa faccio lì? Abbozzo? Mi oppongo? Viene fuori una cacciara davanti ai miei ragazzi? E se un ragazzo mi dice: già che siamo qui andiamo a vedere la tomba del Duce? Mi si ripropone il dilemma. Rispondo di sì o di no? Mi toccherà portare i ragazzi alla tomba del Duce, dove è pieno di energumeni che fanno il saluto romano e dove nel libro delle visite è scritto ogni sorta di sconcezza? Queste sono obiezioni sensatissime, no? Però quando sono state fatte ai responsabili di questo progetto e a Frassinetti stesso, al massimo si è ottenuta la risposta: ci penseremo. Forse era meglio pensarci prima.